Ciao! This is Johnny Lombardi speaking, the president of Chin Radio and TV International here in Toronto, Canada. All of us here at Chin Radio are delighted to be presenting here at Canada's Wonderland, direct from Italy, the ever popular Fuffo. Fuffo. Fuffo. Pensarci su, quello non ero proprio io. Lo devo solo a te. Se rido e lei non c'è, quando c'era lei tutto mi sembrava più bello. Dentro gli occhi suoi io vedevo un mondo diverso. Quando se ne andò e mi arresi come un bambino, io credevo di ancora. Sono venuto tante volte a Toronto, ma questa volta è particolare. Infatti registreremo stasera tutto il concerto e diventerà il mio primo disco dal vivo. Grazie!